Bippo il satellite e il razzo smarrito. Nello spazio siderale di una galassia molto lontana, gravitava una stazione spaziale. Vi abitavano Bippo il satellite, alcuni droidi e un po' di robot. Un giorno che Bippo orbitava vicino alla stiva della base interstellare, vide l'unità radar Ronnie che se ne stava lì, tutto triste. Ronnie, ma cos'hai? Oh, Bippo, non sai cosa è successo? Vogliono mandarmi via perché sono troppo vecchio. Mi toglieranno il naso e mi useranno come coperchio della pattumiera spaziale. È terribile, Ronnie. Non possono farti questo. Ci deve pure essere un modo per evitarlo. Bippo continuò il suo giro pensando alle parole di Ronnie. Stava sorvolando una luna vicina quando il suo occhio fotografico captò qualcosa di strano che sembrava un veicolo spaziale alieno. Volò giù per investigare e trovò un grosso razzo ammaccato che piangeva accanto a un cratere. Scusi tanto, perché sta piangendo? Il razzo rotto guardò Bippo con gli occhi pieni di lacrime. Mi sono perso, non riuscirò più a tornare a casa. Ma perché? Cosa le è accaduto? Come mai è così ammaccato e sgangherato? Il razzo raccontò a Bippo la sua storia. Circa 2 settimane fa partì da una lontana base spaziale per una missione, ma durante il viaggio una banda di meteoriti mi ha aggredito, mi ha ammaccato tutto e mi ha allentato dadi e bulloni. Per di più mi ha strappato il radar. Ecco perché dico che per me ormai è finita e che non troverò più la strada per tornare a casa. Mamma mia, che giornata! Sospirò Bippo. Poi gli venne un'idea. Chiamò via radio nonna computer, che viveva nella stazione spaziale ed era ormai vecchia e molto saggia. Bippo a nonna computer! Bippo a nonna computer, mi senti? Passo! Nonna a Bippo, ricevo benissimo, passo. Sono su Luna TL57, ho trovato un razzo guasto. E in breve spiegò il suo piano. L'idea è ottima, Bippo. Te lo manderò con la vecchia Zeke. Passo e chiudo. Dopo pochi minuti si udì un assordante whoosh. Stava arrivando Zeke, la vecchia navetta spaziale. Bippo le volò subito incontro. Ciao Zeke, l'hai portato? Si spalancò un portellone e Zeke tirò fuori un radar. Era Ronnie. Bippo prese Ronnie e provò ad allacciarlo al razzo guasto. Spero proprio che vada bene, diceva, mentre spingeva e avvitava. Ai! Gridò Ronnie e poi clunk! E Ronnie andò a posto. Perfetto, sospirò Bippo soddisfatto. Grazie infinite, disse il razzo. Ora sì che potrò tornare a casa. E io non dovrò passare il resto della mia vita a far da coperchio a una vecchia pattumiera! Aggiunse Ronnie e partirono felici con un gran rombo di motori.